Auguri di un felice Natale e di un buon anno nuovo da parte di Massimiliano Allegri. Tanti auguri, buon Natale a tutti i vostri giallorossi. Buon Natale, buon anno, spero che le cose vadano sempre meglio per voi e per le vostre famiglie. Con il cuore, buone feste. Faccio gli auguri a tutti i tifosi, a tutte quelle persone che speriamo che è un anno fantastico per tutti, Forza Udinese. Tutti convocati. 800240024 per intervenire in diretta. Oggi ultima puntata della settimana natalizia, una puntata nella quale tutti convocati ha convocato due mostri sacri dello sport italiano che vivono e lavorano all'estero, perché oggi vogliamo parlare proprio di quello, degli italiani che ci stanno facendo grandi altrove. Io saluto subito Marcello Lippi, che ringrazio. Buon pomeriggio, Buongiorno, Marcello. buongiorno. Lippi, Capello, Ancelotti, Spalletti, Mancini, Pianigiani, Ettore Messina, che dopo le 14:30 sarà con noi ed è l'altro ospite di questa giornata, ma poi anche Bernardi, Barbolini, tutti i maestri della scherma. In questi giorni si è parlato molto della fuga di Stefano Cerioni. Marcello Lippi, al di là del dispiacere nostro di non avervi più con noi, è il riconoscimento di una scuola, la scuola sportiva italiana, che è una scuola che comunque resta all'avanguardia? Penso proprio sì, il calcio italiano è molto stimato e molto considerato, i tecnici italiani sono molto considerati, è molto apprezzato in Asia in maniera particolare. Pensavo che fosse più apprezzato il calcio inglese o il calcio spagnolo, invece mi accorgo che sono molte più le partite del campionato italiano che vengono trasmesse rispetto a questi campionati. Quindi non è vero che il nostro è un calcio che non piace più, al di là dei No, suoi no, no, no, no, protagonisti. è molto, molto, molto apprezzato. Certo, non è condivisa non è condiviso un certo atteggiamento, quello delle polemiche, quello della violenza, quelle cose lì sì, sono molto apprezzate, ma il calcio e la professionalità dei nostri interpreti è molto apprezzato. Sì, siamo noi che ci autoflagelliamo un po', abbiamo Un questa pochino sì, tendenza. un Dovremmo pochino imparare ad apprezzarci. sì, un pochino che abbiamo l'abitudine, io l'ho verificato in tante occasioni, prima fra tutte nel 2006, prima di Germania del 2006, che in Italia c'era una confusione talmente grande che tutti pensavano che andando in Germania chissà cosa sarebbe successo all'estero, e invece appena siamo usciti di qua siamo andati in un'isola felice che ci ha permesso di fare quello che abbiamo fatto. Mi racconta come si sta a Canton? Io ho letto alcune interviste anche nei giorni scorsi, ha detto che si sta bene, anche se siamo davvero dall'altra parte del mondo rispetto, io credo, anche al modo che abbiamo noi di concepire il calcio e lo sport. Sì, beh, il calcio è completamente diverso perché non c'è una retrocultura, diciamo così. Però ci sono dei calciatori molto bravi tecnicamente, con buona fantasia, non hanno grandi ritmi, la vera grande differenza è questa, non hanno grandi ritmi, non hanno grande attività, poco movimento senza palla, queste sono le cose sulle quali lavoriamo. Però si sta molto bene, c'è grande attenzione, grande diciamo ammirazione con un pizzico di soddisfazione nei nostri confronti, nel nostro lavoro, in quello che abbiamo fatto nel passato, e perciò siamo seguiti con grande interesse. I cinesi sono famosi perché sono capaci di copiare tutto, la stanno studiando, ci stanno studiando. Sì, ci stanno studiando, ci stanno seguendo con grande attenzione, con grande voglia, con grande ammirazione, devo dire, questo ci rende molto orgogliosi. Com'è il loro calcio? Quanti anni è indietro rispetto al calcio europeo? Ah, no, non creda, non creda. No. Io sto cercando di far capire loro che non basta comprare dei grandi campioni per diventare importanti, per crescere. Si deve crescere come base, si deve crescere come settore giovanile, si deve crescere come calciatori cinesi. Poi dopo arrivano le grandi star a rendere veramente competitiva la squadra. E faccio spesso l'esempio, per esempio quest'anno lo Shanghai Shenhua ha comprato Drogba e Anelka con Tigana allenatore, e però non avendo una grande base di cinesi è arrivato undicesimo. La stessa cosa è successa al Dalian Harbin, che aveva De Keita, ex Barcellona, ricordate, aveva Certo. Takla, centravanti nigeriano, eppure sono arrivati 12esimi. Perciò ci vuole, noi abbiamo un'ottima base di giocatori locali, che questo significa senso di appartenenza, significa avere la sensazione di far parte di una competizione, di una squadra importante. E poi avevamo anche 3 o 4 stranieri di un certo livello, come Conca, Barrios, Moriki, e soprattutto un giovane coreano difensore che è arrivato subito dopo che sono arrivato io, che è molto molto bravo, e questo fa la differenza, il gruppo di giocatori locali. Sì, io glielo chiedo, lei oltre al fatto che da qualche mese è in Cina, poi è certamente un osservatore attento di tutto il calcio internazionale. Spesso si dice che la nuova frontiera si trova negli Emirati, si trova in Qatar, che lì sarà il calcio del futuro, perché lì ci sono le risorse per finanziare anche una crescita veloce. Ha l'impressione che sia davvero così? La Cina può essere la nuova frontiera, o il calcio è destinato a restare Europa centrico, o magari anche i movimenti che ci sono in Brasile, che è una nazione che dal punto di vista economico sta crescendo molto e comincia a vedersi anche nel calcio, cambieranno nei prossimi anni il panorama del calcio mondiale? Ma quello che fa, è indubbio che le possibilità economiche di questi paesi sono infinite e potrebbero permettere qualsiasi crescita di qualsiasi tipo, ma la cosa che fa veramente ben sperare per queste doni è per esempio quello che ha fatto recentemente il Guangzhou. Negli ultimi 3-4 mesi hanno costruito un'accademia del calcio con alberghi, palestre, 83 campi da calcio. 83 campi da calcio, questo lo sottolineiamo. 83 campi da calcio. Per raccontarlo a chi in Italia fa fatica a fare cittadelle o magari anche soltanto a costruire un campo in più nel centro d'allenamento, ma questo senza polemica, però purtroppo sono le notizie che leggiamo tutti i giorni. Hanno fatto questo, che questo complesso potrà ospitare 3.000 bambini, 800 dei quali sono già stati reclutati. Pensi che hanno fatto un accordo con il Real Madrid, che ha mandato 15 allenatori, e questi allenatori hanno selezionato per tutta la Cina, per un anno e mezzo, 4 milioni e mezzo di bambini. E il problema è che non c'è, non giocano a pallone per strada. Io non vedo un bambino che gioca a pallone per strada in Cina, e non è facile trovarli. Però questa è la strada, costruire degli impianti per crearli giovani, costruirli giovani dal punto di vista calcistico. Sì, li fanno studiare, li fanno studiare, sono tutti di scuola, primarie, secondarie, eccetera, eccetera. Tra l'altro stiamo parlando di un bacino di partenza, di una base della piramide con dei numeri che io credo sono assolutamente impossibili in Europa, non in Italia, perché 4 milioni e mezzo di bambini selezionati per insegnargli che cos'è il calcio significa che nei prossimi anni c'è la possibilità che dalla Cina arrivi davvero anche qualche campione e non soltanto qualche prodotto per il calcio locale. Devono capire, e io mi sforzo tantissimo di far capire loro quando parlo, chiaramente con i miei dirigenti, che non è tanto importante comprare 7 extracomunitari, perché questi 7-8 extracomunitari vanno a togliere posto a giocatori bravi cinesi, giovani cinesi, non c'è dubbio. Basta prenderne 4, che sono il limite che può giocare il campionato, e poi lasciare gli spazi. Gli allenatori sono su 16 squadre, ci sono 13 allenatori stranieri, brasiliani, portoghesi, serbi, croati, un italiano che è sottoscritto, e poi dopo anche lì sono stati esonerati 3 o 4 di questi allenatori e sono arrivati altri cinesi. Però la volontà di globalizzare anche il calcio c'è. Non dico di copiarlo, ma di emularlo, ecco. Sì, ed è molto affascinante questa cosa della cittadella dedicata soprattutto a seminare per il futuro, perché penso che se i cinesi hanno copiato qualcosa di giusto dal calcio europeo, questo è certamente il modello migliore. Marcello, io le chiedo 30 secondi di pazienza, ci sono le informazioni sul traffico, poi ripartiamo da qui. Traffico. Tutti convocati. E siamo di nuovo con Marcello Lippi, che ci sta raccontando la sua esperienza cinese. Abbiamo sentito dei progetti del calcio cinese che sarà certamente un pezzo importante del calcio del futuro. Mi sembra di poter dire, Lippi, ho visto delle immagini con stadi pieni che in Italia ci sogniamo. Al di là dei progetti, esiste già un presente importante che sta crescendo? Esiste assolutamente, sì, sì. Noi non tutte le squadre ovviamente, però noi a Pechino, a Shanghai, in altre città ci sono dei numeri abbastanza importanti. Noi abbiamo una media di 40.000 spettatori ogni domenica, ogni partita. Cioè, per intenderci, lo raccontiamo a casa, 40.000 spettatori è la media che fa la Juventus, poco meno con lo Juventus Stadium, fa l'Inter. Ma io per esempio ho cercato di far capire loro che era importante anche considerare la Coppa, no? Perché c'era la tendenza a privilegiare il campionato e snobbare un po' la Coppa di Cina. Poi piano piano ci siamo accorti che noi andavamo a giocare gli ottavi, i quarti, e venivano 35.000 persone a vedere la Coppa. E siamo andati in finale, abbiamo avuto la fortuna di vincere anche quella. Alla finale della Coppa c'erano 45.000 spettatori e questi sono numeri che sono eccezionali. Sono certamente eccezionali. Dica la verità, lei all'inizio c'è andato più per la sfida, per la curiosità o per il contratto importante che le è stato messo io davanti? Io ci sono andato senza farsi ipocrisie, perché ho avuto dei rapporti, dei contatti con loro, mi hanno fatto delle proposte che inizialmente avevo rifiutato e poi dopo mi hanno fatto una proposta che onestamente era impossibile rifiutare. Io gliel'ho chiesto perché in passato ho parlato con Damiano Tommasi, che è stato uno dei precursori nel calcio cinese, e lui mi raccontava: io ci sono andato perché quelle offerte non si possono, soprattutto a fine carriera, rifiutare, però dico la verità, la Cina poi mi è entrata nel cuore e ho continuato a lavorare con loro. È la stessa cosa che dico io, sono stato 5-6 mesi, 7 mesi, loro continuavano a chiamare, continuavano a telefonare e io dicevo di no, ogni volta continuavano a alzare l'asticella e poi è arrivato un momento che le offerte non si possono, cioè è un insulto alla miseria, sarebbe stato. E perciò, però poi dopo sono veramente gratificato sotto tutti i punti di vista, è veramente un'esperienza fantastica. C'è un po' di nostalgia dell'Italia, non le chiedo se solo professionale o per la vita. La nostalgia non c'è probabilmente, perché io avevo già deciso da tanto tempo che l'allenatore in Italia non l'avrei fatto. Avrei voluto fare un'altra esperienza, o magari in Arabia, o nei paesi arabi, in Qatar, Emirati, oppure da un'altra parte, ma è arrivata questa e sono felice di aver fatto questa. E dal punto di vista professionale non c'ho nessuna, anche perché fortunatamente tutto quello che c'era da fare qua, diciamo che l'avevo già fatto. È chiaro che la nostalgia di casa, della famiglia, dei nipoti, degli amici, di tutto. Ho letto che manca un po' il mare, anche se a portata d'aereo. Sì, è vero. A un aereo da Guangzhou c'è una bellissima isola dove c'è un clima tutto a 30 gradi, si sta bene, c'è un bel mare, perciò. Ma soprattutto ci sono 8-10 voli al giorno, perciò in qualsiasi momento della giornata si decide, un giorno un paio di bagni si fanno velocemente. Non c'è dubbio. Lei vive in una città di 17 milioni di abitanti, sì. Stiamo parlando praticamente di un quarto della popolazione italiana. Com'è l'Italia vista da lì? Adesso, al di là dell'aspetto calcistico, lei ha l'impressione di essere dentro il futuro? Perché noi in Italia ci interroghiamo e molto invece sul fatto di essere un paese vecchio. Ma la sensazione di essere dentro il futuro c'è senz'altro. Ma c'è anche la consapevolezza di quanta ammirazione ci sia nei confronti dell'Italia. L'Italia della moda, nell'Italia degli stilisti, nell'Italia della cucina, nell'Italia dei vini, in tutta l'Italia. E ho partecipato per esempio a workshop che hanno organizzato Toscana Promotion con tour operator locali per indirizzare i turisti e c'è una conoscenza delle nostre bellezze. Della nostra architettura fantastica. C'è molta ammirazione per l'Italia, credete. Siamo noi che ci denigriamo un po', ma all'estero c'è grande ammirazione nei nostri confronti. Con questo siamo tornati al punto di partenza, la nostra tendenza ad autoflagellarsi. Lippi, io la ringrazio per questa chiacchierata. Le auguro ovviamente un buon 2013. Come vede, si può parlare di calcio e di esperienze anche senza soffermarsi su rigori, sulla Juventus, sullo scudetto. Certamente. Il suo obiettivo per il 2013, visto che al primo tentativo ha già vinto, qual è? L'obiettivo è quello, la grande soddisfazione sarebbe di avere un pizzico di fortuna in più in Champions League asiatica, perché quest'anno ne abbiamo avuta veramente poca, meritavamo avvenne il passaggio del turno, per la prima volta una squadra cinese è arrivata nei quarti e diciamo che l'obiettivo primario il prossimo anno è la Champions League asiatica. Grazie Marcello Lippi. Arrivederci e buon Natale a tutti. Grazie e buon 2013 a lei. E noi continuiamo invece il nostro viaggio in quelli che sono gli italiani che si stanno facendo onore in giro per il mondo. E questa volta invece che in Cina vogliamo andare in Albania, dove c'è un altro allenatore italiano che si sta misurando con una realtà differente, magari più lontana dalle grandi platee come possono essere quelle della Premier League, dove vive e lavora Mancini, dove è stato Capello. Si sta confrontando con un calcio che chiederemo a lui, a Gianni De Biasi, quanto è emergente. Buon pomeriggio mister. Buon pomeriggio a voi e a tutti i radioascoltatori. Abbiamo appena lasciato Marcello Lippi che ci raccontava della Cina proiettata con i suoi programmi e i suoi progetti sul futuro anche nel calcio e ha detto si ha proprio l'impressione di essere nel futuro. L'Albania che cos'è? Ma diciamo che è un calcio ed è una realtà completamente diversa da quella di Marcello Lippi. Abbiamo numeri molto piccoli mentre lui ha numeri grandissimi dal punto di vista proprio della 4 milioni e mezzo di bambini selezionati in un anno per insegnargli il calcio nei campus. Non esistono in tutta l'Albania. Sì, credo che la popolazione sia poco superiore, esatto, in Albania a 4 milioni e mezzo. Sì, diciamo che oggi la popolazione residente sarà intorno ai 3 milioni e mezzo di persone, poi qualcuno sparso per l'Europa e quindi abbiamo numeri decisamente più piccoli, però c'è voglia di crescere come tutte le realtà che hanno vissuto una dittatura escono e in questi ultimi 20 anni hanno fatto anche dei passi avanti notevoli. Lei ha avuto l'impressione di aver accettato una proposta da ruota di scorta, con che spirito è andato in Albania, che non è certamente il centro del mondo calcistico? Bravissimo, ma siccome non mi chiamavo Marcello Lippi e neanche Marco Capello, ho deciso che dovevo partire per forza dal basso, come ho sempre fatto nella mia carriera di allenatore anche qui in Italia, sono partito dalla C2, addirittura dagli allievi a suo tempo e poi ho scalato tutte le strade difficili che c'erano in quel periodo lì e sono arrivato in cima alla montagna e da lì vi posso garantire che arrivandoci con la piccozza si fa tanta fatica, ma il panorama che vedi sotto è diverso da quello che vedono chi arriva su con la funivia o con l'elicottero. Cosa si vede di diverso? Cos'è il panorama dalla posizione in cui si trova oggi lei? Ma si assapora il fatto della quotidianità vissuta con fatica, però si vede anche che lavorando con intelligenza, me lo passi, non mi viene un altro termine in questo momento, un altro aggettivo, però dando continuità a un certo tipo di lavoro, portando la nostra mentalità, cercando di portare quel know-how che abbiamo acquisito in questi 20 e passa anni di allenatore qui in Italia, direi che per loro è cose mai sentite, mai narrate. Poi un discorso anche legato all'organizzazione di tutto il sistema, questo direi che è un po' la bellezza del lavoro che viene svolto lì. E sì, la sfida è che voi andate non solo ad allenare una squadra, una nazionale, ma in realtà io credo veniate coinvolti proprio nella costruzione di un progetto. Sì, esattamente, è quello che volevo fare io in Albania, perché vi posso assicurare che dei talenti ci sono. È chiaro che se poi non hai i maestri che cercano di sgrezzare questi giocatori che hanno delle buone qualità, il prodotto finito poi rimane sempre incompiuto. Io credo che dandogli gli strumenti, dandogli le conoscenze che noi abbiamo, aiutandoli nella crescita, io credo che l'Albania possa sicuramente ritagliarsi uno spazio, non di primissimo ordine, come dico, i numeri sono... Sì, i numeri sono penalizzanti e sono difficili da cambiare, sono impossibili da cambiare, l'Albania resterà sempre una realtà piccola, però c'è la possibilità di farla crescere, di svilupparla. Sì, di migliorarla molto. Guardi, io proprio in questi giorni festeggio l'anniversario del mio arrivo in Albania e vi posso garantire che da quando sono arrivato ad oggi già qualcosa di diverso si vede, almeno non è una mia analisi critica, non è qui adesso di cercare di tessere gli elogi a me stesso e ai miei collaboratori. Sinceramente si vedono cose che prima non vedevamo, una squadra molto più corta, molto più compatta, che cerca di fare molto più possesso palla, che cerca poi di mettere in pratica quelle attenzioni, anche da quel rigore, anche dal punto di vista tattico, per cercare di non cadere nei normali errori che erano quotidiani nelle esibizioni precedenti. Sì, io credo non sia un caso che esportiamo soprattutto grandi tecnici. L'elenco l'abbiamo fatto anche prima con Marcello Lippi, ma noi, al di là di talenti, di calciatori, stiamo proprio esportando una scuola, la capacità di razionalizzare anche i talenti altrui. Da questo punto, io credo che noi siamo partiti in ritardo rispetto a altre scuole di allenatori, perché siamo sempre stati un popolo, così ci descrivevo, di naviganti, e qua e là in realtà poi eravamo tutti casa e chiesa, e fuori dal nostro ambito sembrava che il mondo fosse finito. Io credo che ci siano invece delle realtà, dei mercati anche ad est o da qualsiasi altra parte, dove adesso si è spostato Lippi, dove si è spostato Fabio Capello, che sicuramente danno più soddisfazioni, ma non solo dal punto di vista economico, credetemi, è che c'è una valorizzazione diversa del ruolo dell'allenatore, in questo caso del commissario tecnico. Però vi posso garantire che noi italiani siamo sempre stati dei gran mammoni, e quindi alla sera dovevamo tornare a casuccia. Sì, facevamo fatica ad andarcene. Io ricordo il primo Nevio Scala in Ucraina, e fu guardato come un UFO, perché se ne andava e lasciava quello che allora era considerato il campionato più bello, del mondo, e più ricco del mondo. Siamo quasi in chiusura di questa chiacchierata, De Biasi. Io volevo farle fare un'ultima considerazione. L'Albania ci ha sempre guardato un po' come se fossimo l'Eldorado. Ci sono anche vicende che risalgono ai decenni scorsi, drammatiche, legate all'evoluzione di quel paese. Mi sembra di poter dire che quelli che sono qui sono perfettamente integrati, e anche dall'altra parte dell'Adriatico forse è cambiato leggermente l'approccio nei nostri confronti. Ce lo racconta? Ma diciamo che loro, come diceva giustamente lei, ci hanno sempre visto come l'Eldorado, come noi vedevamo l'America una volta come possibilità di sfuggire da una... Sì, ricordiamo anche immagini drammatiche. Oggi com'è? Esattamente. Oggi ci sono molti che vivono in Italia che tornano in Albania. Questa è la cosa preoccupante da parte nostra, dico. Grazie a Gianni De Biasi. Noi ci fermiamo adesso. Dopo la borsa, la pubblicità, ci sarà Ettore Messina, che è il guru del basket italiano, uno degli allenatori più titolati in Europa e non soltanto in Italia, uno che ha vissuto a Madrid, vive e lavora a Mosca, ma è stato anche su una panchina mitica, quella dei Los Angeles Lakers. Torniamo fra due minuti. Tutti convocati. E siamo di nuovo qui, proseguiamo il nostro viaggio tra gli italiani dello sport che si stanno facendo onore e ci stanno facendo onore in giro per il mondo. Abbiamo sentito dell'esperienza cinese di Marcello Lippi e poi dell'altra faccia della medaglia, del calcio, il calcio albanese, con Gianni De Biasi. Adesso cambiamo sport, però il personaggio che introduco e che ringrazio per essere qui con noi è che è Ettore Messina. Buon pomeriggio, Messina. Buon pomeriggio a voi. Certamente Messina, lo dico senza nessun problema, uno dei prodotti migliori che lo sport italiano esporta in giro per il mondo. Lo dicono i risultati. Io saluto anche Flavio Tranquillo. Buon pomeriggio, Flavio. Buon pomeriggio a voi. Saluto Flavio Tranquillo, che con Ettore Messina ha scritto un libro che è nelle librerie proprio in queste settimane, Basket, Uomini e Altri Pianeti, che racconta la parabola anche in giro per il mondo, Messina, di un allenatore che ha vinto ovunque, ma che mi sembra di poter dire soprattutto alla curiosità di queste storie anche umane che ha vissuto, oltre che storie di basket, perché poi andare fuori a lavorare, a cercare di vincere, a cercare di affermarsi, è comunque, io credo, diverso che cercare di farlo in Italia, come lei già aveva fatto a Bologna o con la nazionale. No, sicuramente è molto diverso, perché quantomeno ti devi confrontare con modi di pensare, modi di fare, modi di stare insieme completamente diversi in alcuni casi rispetto al nostro. Puoi arrivare anche a situazioni in cui un comportamento che per noi è normale, magari nel posto dove ti trovi non è ugualmente normale, e viceversa. Quindi alla fine poi quello che ti resta, secondo me la cosa bella è che se sei riuscito a fare bene il tuo lavoro, indipendentemente dai risultati, ma farlo con le persone con cui sei stato, è anche bello poi ritornarci e rivederci con queste persone. Flavio, noi abbiamo aperto questa puntata insieme a Marcello Lippi facendo l'elenco di tanti tecnici di tanti sport italiani che in questo momento sono in giro per il mondo e stanno facendo tutti bene. Secondo te che cosa, qual è il messaggio di questo tipo di ragionamento? Esportiamo il meglio perché stiamo esportando il know-how, si direbbe dal punto di vista industriale, più ancora magari che i singoli talenti, i singoli giocatori? Sicuramente esportiamo il know-how, sicuramente esportiamo un nostro modo di essere, nello specifico un modo di essere della scuola italiana degli allenatori. È anche vero che esportiamo il meglio perché il meglio trova legittimamente e oggettivamente meglio essere esportato che rimanere all'interno del paese, quindi è un po' doppia, diciamo, la prospettiva. Cioè non possiamo più permetterci di tenere quelli come Lippi, come Messina, come tanti altri di cui abbiamo parlato. Però non possiamo più permetterci, andrebbe investigato. Sì, anche qui sulla superficie è così. In realtà allargherei dicendo non abbiamo creato le condizioni per permetterci di tenerle a casa. Messina, è soltanto una questione di soldi o c'è anche una questione di sfida? Lippi ha detto: io sono andato lì per il contratto perché certe cifre non si possono rifiutare e non voglio essere ipocrita, però adesso che sono lì da 6 mesi sono contento, la Cina mi è entrata nel cuore e soprattutto sono gratificato da quello che faccio. Guardi, sicuramente in molte società estere si può guadagnare di più che in Italia, però il problema non è quello, il problema è soprattutto cercare di avere l'obiettivo di poter fare le cose in una certa maniera, di poterle fare guardando avanti a un periodo anche medio e non solo guardare nell'immediato futuro, e di conseguenza poter avere la sensazione che si ha un obiettivo di crescita. Purtroppo negli ultimi anni in Italia, un po' per le regole, un po' perché sono cambiate spesso, un po' per le questioni economiche, un po' per il fatto che alcune società hanno sofferto economicamente, un po' perché non ci si sa mettere d'accordo su quante squadre devono partecipare ai vari campionati, un po' per tante cose si fa fatica a immaginare il futuro. Ecco, non solo nella mia disciplina, ma in tante altre discipline. Quello che vi spinge, che la spinge anche a restare fuori al di là dei soldi, è proprio la sensazione fuori di poter plasmare qualcosa al di là del risultato della domenica, della singola competizione. Sicuramente, e anche, le ripeto, voglio dire, noi siamo fortunati, sono molto più, affrontano una sfida molto più difficile, per esempio, quelle persone che una volta laureate devono andare all'estero per trovare opportunità di lavoro di un certo tipo, quei ricercatori che non riescono a trovare la possibilità di fare bene il loro lavoro nell'università italiana perché mancano i fondi o soprattutto perché i fondi non vengono destinati alla ricerca. Noi siamo semplicemente una riproduzione di situazioni che ci sono in altre situazioni o in altri ambienti del paese, però noi siamo i fortunati perché nello sport puoi andare fuori dal tuo paese e trovare facilmente soddisfazione. Sì, altre persone che hanno talento nel loro lavoro devono affrontare sfide molto difficili per poter realizzarsi all'estero. Quando lei sente e ciclicamente viene ripetuto questo appello al ritorno dei cervelli in Italia, come la vede, come la sente, come lo percepisce questo appello? Uno dei cervelli, in questo caso sportivi, che all'estero ci è andato, sta facendo bene, trova gratificazione? Ma ripeto, a parte quando sento parlare di cervelli, uno che veramente magari mette il cervello nella ricerca o sport, magari sì, però il parallelismo ci sta, sì, e lei giustamente lo sottolineava. Mi permetta una battuta, mi basta aprire, guardi, ogni giorno i nostri quotidiani via internet e leggere del nostro paese, sinceramente, per avere dei dubbi. Quindi questo è un problema, lo dico con amarezza, perché a me piacerebbe far crescere mio figlio nel mio paese. Certo. Però la speranza è che riusciamo a migliorare tutto qua. Certo. Flavio Tranquillo, ci racconti in un minuto chi è Ettore Messina per quei 2 o 3 che non lo conoscono, così poi raccontiamo anche cos'è stato Ettore Messina all'estero, cos'è in questo momento a Mosca? Ma è un allenatore di pallacanestro, per quelli che proprio non ne hanno idea. E qui iniziamo dalla base. È uno di quelli che ha vinto tanto, e anche qui rimaniamo alla base. Ha anche perso, oltre che vincere, ha avuto le sue difficoltà, però la cosa secondo me importante del libro, che viene fuori in maniera chiara, e spero lo dimostri anche la chiacchierata dove di basket abbiamo parlato il giusto, che attorno alla pallacanestro c'è dell'altro, e quindi che forse valeva davvero la pena di provare a indurlo a mettere questa storia dentro un libro. Poi c'è un'altra cosa, c'è una valenza del libro, ed è la possibilità di raccontare con gli occhi di uno di noi un pianeta, vedi il titolo, che di solito viene descritto da chi non lo vive, un po' perché non può, perché non tutti possiamo andare a allenare i Lakers, anzi quasi nessuno, perché non vuole, perché si vuole parlare di NBA secondo luoghi comuni, cose sentite di terza, di sesta e di nona mano. E quindi credo che lo sforzo di raccontare l'NBA dal di dentro sia molto importante. So per certo che anche tanti giocatori, allenatori NBA sono molto contenti che questo sia successo, perché appunto si fa giustizia di luoghi comuni, non solo nel bene, anche nel male, però i luoghi comuni sono veramente un pessimo avversario, di quelli che non batti neanche se sei bravissimo. Sì, io ricordo il titolo Basket, Uomini e Altri Pianeti, scritto da Ettore Messina con Flavio Tranquillo, tra l'altro ricavato, devoluto in beneficenza, devoluto all'associazione Il Sogno di Stefano. È davvero un altro pianeta la NBA, Los Angeles, gli Stati Uniti d'America, Messina? Sono un mondo profondamente diverso dal nostro, è sempre pallacanestro, però fatta, vissuta, litigata in un modo completamente diverso come facciamo noi, con una competizione spesso esasperata, però anche con un livello organizzativo certamente da prendere a riferimento. E resta ed è destinato a restare ancora a lungo il punto di riferimento per chi fa basket, per chi ama il basket. Sì, però credo anche che noi in Europa, con le nostre migliori squadre, quelle che giocano ad alto livello in Eurolega, ci stiamo avvicinando e offriamo, credo, un prodotto nuovamente appassionante, che a molti in Europa, in alcuni casi, per esempio, viene preferito da spettatore alla regular season dell'NBA, per esempio, quando viceversa i playoff NBA raggiungono un livello di spettacolarità, di pathos e di competitività che è obiettivamente irraggiungibile. Perché a livello di leggende metropolitane, cominciamo magari a parlare della prima, c'è questa, che le 80 partite della stagione regolare siano in realtà una sorta di passeggiata, quasi uno show, no, uno spettacolo, senza che ci sia dentro, se non la componente giusta, di sport e di agonismo. No, non è così, anche perché il calendario è molto intenso e spesso ti finisci di giocare, prendi un aereo, di nuovo la mattina presto hai già allenamento perché giochi la sera successiva, quindi non è così. Ci sono alcune partite che vengono giocate magari in alcuni momenti un po' rallentatore, soprattutto quando è chiaro chi vincerà, e quindi magari si aspetta come due pugili che si studiano nelle prime riprese e poi si aspettano le riprese decisive per darsi veramente i colpi pesanti. Però poi quando si scontrano le squadre importanti c'è sempre anche una rivalità talmente forte sul piano personale, un senso della sfida talmente forte che le partite vengono giocate. E poi arrivano i playoff. Flavio, visto dalla nostra parte dell'oceano, l'NBA resta sempre comunque un mondo lontanissimo, anche se adesso ci siamo abituati a trovare quasi tutte le mattine le cronache delle imprese di Gallinari, di Bargnani, di Belinelli. Da questo punto di vista si è un po' avvicinato rispetto agli anni e ai decenni scorsi. C'è però la sensazione che resti davvero qualcosa di irraggiungibile. Ma irraggiungibile, per adesso è irraggiungibile per tutta una serie di motivi, il principale è economico, però se ne facciamo per esempio una questione di radicamento, che credo sia il termine tecnico che userebbe un esperto di marketing, il trend, sempre per parlare del linguaggio del radicamento dell'NBA, è molto superiore rispetto al trend del radicamento del basket europeo, per esempio, e in questo momento italiano. E soprattutto questo andrebbe visto nella prospettiva di quello che diceva Ettore, ovvero sia il 27 dicembre comincia la top 16 di Eurolega, il 27 dicembre e nelle settimane successive l'Eurolega offrirà un prodotto che per sua natura sarà favorevolmente comparabile con una partita NBA di regular season, non con una partita NBA, ma con una partita NBA di regular season sì. Il problema è appunto come riuscire a radicarlo. Ecco, il pianeta NBA aggiunge a quello che fa in campo, a quello che fa a livello organizzativo, una spinta, una tensione verso l'esterno, perché dall'esterno dipende per generare le risorse di un certo tipo che noi purtroppo non siamo in grado di generare al momento. Sì, che non generiamo e che non siamo certamente capaci di convogliare sul prodotto basket. Vi chiedo 30 secondi di pausa, ci sono le informazioni sul traffico, poi torniamo Flavio Tranquillo, Ettore Messina. Tutti convocati. Io intanto ringrazio Franco Piantanida in redazione, Roberto Scaltritti in regia. Siamo nella parte finale di questa chiacchierata che chiude la settimana post-natalizia di Tutti convocati e che oggi abbiamo dedicato agli italiani all'estero, quelli che stanno insegnando il calcio, il basket, la pallavolo, lo sport in generale così come lo conosciamo noi, stanno vincendo, ci stanno facendo onore, ma anche un po' di rimpianto, perché loro sono là e noi siamo qui con le nostre difficoltà e la nostra crisi. Ettore Messina, perché in America, e questa è una cosa che affascina molti, sono capaci di seguire tanti sport, invece da noi c'è soltanto il calcio? Perché io credo che dentro quella tensione, poi a valorizzare il prodotto di cui parlavamo prima del traffico, ci sia anche la capacità culturale di appassionarsi, di seguire, di non essere settoriali. Perché loro sono diversi da noi? Beh, credo perché tutto comincia con la scuola, dove gli sport classici, ovvero sia football, baseball e pallacanestro, sono normali. Cioè, finita una stagione come quella invernale, dove si gioca per esempio solo a pallacanestro, dopodiché si comincia con il baseball, poi arriva il football e diciamo ci sono poche sovrapposizioni e c'è la possibilità addirittura per molti studenti di svolgere, di fare magari due se non addirittura tre discipline sportive. Questo poi se lo portano quando sono più grandi e anche a livello diciamo di sport professionistico sono sport che non vanno in televisione a sovrapporsi uno con l'altro, ma hanno il loro momento, hanno solo piccoli momenti di sovrapposizione e quindi uno li può seguire tutti e divertirsi. Ecco, in questo salto culturale, Flavio, ho l'impressione che noi siamo dietro non decenni ma secoli. Magari ci possiamo arrivare con i talenti, con gli allenatori in NBA, ma ho l'impressione che questo gap sarà difficile da colmare. Sicuramente ci vorranno decenni, però ci vorranno decenni non perché è obbligatorio che ci vogliano decenni, nel senso che il circuito è doppio. Anche io avrei dato esattamente la stessa risposta di Ettore. È chiaro che la differenza è che tu hai la possibilità di fare diverse esperienze a livello scolastico. È importante però capire che a livello scolastico, per esempio, si gioca tantissimo a calcio negli Stati Uniti, tantissimo. È il primo sport per diffusione scolastica. Esattamente. Il punto è che poi, quando si passa alla questione che tipo di prodotto da adulto vado a consumare, il calcio non è in grado di competere sul mercato in cui ci sono già tre oppure anche quattro, se vogliamo metterci l'hockey, sport principali. Quei quattro sport principali però si sono appunto divisi la torta, hanno trovato i loro spazi e lavorano in una situazione, chiamiamola, di concertazione. Sono tutte cose che, volendo, non a quel livello domani mattina, ma a livello di visione, a livello concettuale, si potrebbero portare non pari pari, perché pari pari non funzionerebbero, ma nella loro idea principale, in nuce, diciamo così, è che poi bisogna avere la volontà di farlo e la possibilità di fare la concertazione. Sì, magari basterebbe cominciare ad esempio a Milano, evitare di programmare il derby in contemporanea con una partita importante di cartello dell'Armani e viceversa, però evidentemente, visto che questa cosa ad esempio è successa non più tardi di un paio di mesi fa, stiamo davvero parlando di fantascienza per i nostri dirigenti. Con questo comprendiamo i dirigenti un po' di tutti gli sport e di tutte le discipline. Io credo che per gli appassionati di basket, il libro Basket, Uomini e Altri Pianeti di Flavio Tranquillo ed Ettore Messina sia anche una miniera di aneddoti e di racconti su che cos'è il mondo dell'NBA visto da dentro. Ad esempio, coach Messina, cos'è la vita di un allenatore nell'NBA? Una vita, insomma, se ti piace la pallacanestro è una bella vita, nel senso che stai immerso totalmente in questo campionato, preparando le partite, preparando i video, preparando gli allenamenti, viaggiando, vedendo filmati degli avversari, insomma sicuramente c'è poco tempo per fare tante altre cose, il poco tempo che uno ha a disposizione cerca poi di stare con la propria famiglia, con i propri cari. Certamente dal momento in cui iniziano gli allenamenti, ai primi di ottobre, fino alla fine, quando la tua squadra viene eliminata o finisce il campionato, sei 24 ore al giorno facendo per la canestra. Sì, per chi ama questo sport, credo sia un po' come sbarcare a Disneyland. Sì, questo è vero, sicuramente. Almeno per me è stato così, certamente. Poi, Flavio, ripeto, prego. No, dicevo, poi ripeto, uno perché lo vuol fare. Ecco, magari a chi non piace la pallacanestro sicuramente non è il massimo della... Sì, non è una passeggiata, perché è un lavoro ed è un lavoro nel vero senso della parola che assorbe. Flavio, per chi sa poco di pallacanestro, raccontiamo cosa sono i Los Angeles Lakers, così con parole semplici per quei due o tre che magari si chiedono perché davvero sia un altro pianeta. Ma i Los Angeles Lakers sono un pianeta nel pianeta, sono un reality ambientato nel basket, però come giustamente dice David Stern, il commissioner dell'NBA, lo sport è l'unico reality in cui la sceneggiatura c'è solo all'inizio ma non è scritto il finale. I Lakers sono riassunti dal loro bordocampo, una sera c'è Rihanna, una sera c'è Charlize Theron, tutte le sere c'è Jack Nicholson, l'uomo più ricco di Los Angeles, è comunque una parte della proprietà dei Lakers. I Lakers quando giocano in trasferta anche su campi tra virgolette insospettabili hanno dei tifosi, al primo canestro dei Lakers si sente un boato a Washington, un boato anche a Boston, l'ho sentito lo scorso anno in circostanze particolari, lo raccontiamo nel libro, sono qualcosa di diverso. E dalla Scout del Football li chiamavano The America's Team, la squadra dell'America, e i Lakers sono lì vicino. Ettore, si sente questa pressione, anche questa responsabilità, oltre che io credo il fascino di stare in quell'ambiente, su quella panchina? Credo, allora, per me che sono straniero sento di più sicuramente il fascino. Immagino che per un americano il livello di pressione sia elevato. Io sinceramente posso aver sentito molto di più le aspettative al Cesca piuttosto che a Bologna o alla Benetton o ovviamente con la nazionale, per non parlare del Real Madrid, dove le aspettative sono veramente tantissime. Però ripeto, io gli facevo l'assistente. Immagino che per Mike Brown e per chiunque alleni lì in prima persona, o per un Kobe Bryant, un Pau Gasol, il livello di aspettativa sia talmente elevato che la pressione si sente come. Che come si sta in quello spogliatoio circondato da monumenti, Kobe, Gasol e tanti altri, perché basterebbe prendere... Con gli occhi e le orecchie aperte per non perdere neanche mezza virgola di quello che succede. Cioè si impara, non si va lì a spiegare. No, ci si confronta, direi che la parola più corretta è confronta, anche perché sono giocatori che sono estremamente disponibili appunto al confronto e sono estremamente interessati al fatto che tu gli possa dare una mano anche a migliorare una cosa piccola del loro repertorio o del loro repertorio individuale o di squadra. È gente molto molto aperta e di conseguenza è estremamente stimolante. Come si esercita la leadership? Perché io immagino che Ettore Messina in Italia era il numero uno, in Europa è certamente tra i numeri uno, sbarcato a Los Angeles probabilmente ha dovuto anche ricalibrare la sua leadership. Ma sicuramente ti devi guadagnare tutto, perché ti devi guadagnare l'attenzione, sei un neofita, sei una matricola e di conseguenza devi stare attento a quello che dici, devi stare attento a come lo dici, devi stare attento secondo me a mantenere le tue posizioni quando sei convinto di essere nel giusto, non puoi certamente pensare di imporre nulla, certamente ti devi far accettare. Però credo anche che se ti metti passivamente ad aspettare che ti accettino non vai da nessuna parte. Flavio, io credo sia questo l'aspetto più bello poi della sfida di uno che si va a misurare con questo genere di realtà e di spogliatoio. Beh, sicuramente mi vengono in mente due momenti, mi sono venuti in mente due momenti mentre parlava Ettore. Uno, quando ha giocato la prima partita, e la prima volta proprio che ha fatto tutto quello di ufficiale a Natale contro i Bulls, il veste Lakers, è la seconda, la prima volta che ha avuto il compito di presentare un filmato alla squadra. Presumo che fare l'allenatore a quel livello sia un lavoro che è sempre bello, però quando lo fai da anni, riuscire a trovare qualche cosa che ti ricarica, che ti sorprende, che ti esalta, che ti responsabilizza così tanto, probabilmente per provare queste sensazioni doveva veramente cambiare pianeta, e decisamente lo ha cambiato. Sì, presumo siano momenti da farfalle nelle pance. Io voglio ricordare ancora Basket, Uomini e altri pianeti, scritto da Ettore Messina e Flavio Tranquillo, è nelle librerie. Il ricavato è devoluto all'associazione Il Sogno di Stefano e dunque va assolutamente in beneficenza. Io ringrazio Flavio Tranquillo per questa chiacchierata. Grazie Flavio. Grazie a voi. E ringrazio ovviamente Ettore Messina, grazie coach. Grazie a voi, è veramente molto gentile, grazie. Grazie a tutti. Beh, finisce qui la nostra settimana post natalizia. Questa era una puntata davvero speciale. Vi abbiamo raccontato l'Italia dello sport nel mondo, lo abbiamo fatto, abbiamo voluto farlo con grandissimi personaggi. Domani torniamo con A Tempo di Sport a partire dalle ore 17. Tutti convocati, invece, torna settimana prossima, lunedì alle 14 con Carlo Genta. Grazie per essere stati con noi. Merry Christmas to all Manchester City fans and thank you for your support.